Popolo di Eutopia, questa sera vorrei parlarvi delle tecniche di manipolazione dell'opinione in cosiddetta democrazia. E chi ha orecchie per intendere, intenda. I due punti di vista che vi propongo sono completamente dissimili, ma con analisi alquanto similari. Il primo, quello del cinico Edouard Bernays, pubblicitario statunitense del secolo scorso, e il secondo, quello di Noam Chomsky, nostro contemporaneo, linguista e critico implacabile del potere politico. Edouard Bernays è considerato il padre fondatore della propaganda politica e industriale moderna, ed è l'ideatore di celebri tecniche di manipolazione dell'opinione, descritte nella sua opera più famosa, Propaganda, sottotitolata Come manipolare l'opinione in democrazia. Ripercorriamo per sommi capi le sue idee e il suo percorso e, come si dice, ogni riferimento è eccetera, eccetera, perché poi spero siate voi ad aggiungere l'aggettivo che riterrete più opportuno, casuale o volontario. Bernese è un personaggio che fa parte della grande macchina del potere economico e fornisce letteralmente il modo d'uso della dominazione ideologica e della manipolazione dell'opinione in democrazia. Si potrebbe quasi usare un parallelo dicendo che Bernese è un Machiavello del XX secolo, così come Machiavelli consigliava il principe sulla maniera migliore di manipolare il popolo e influenzarlo, allo stesso modo Bernese consigliava gli uomini politici e grandi industriali spiegando loro come fare per aumentare il loro capitale, sia economico che simbolico. Ma la particolarità di Bernays, al contrario di Machiavelli, è che non nasconde il proprio gioco, assume la sua propria iniziativa perché, per lui, la democrazia è prima di tutto un regime nel quale una minoranza illuminata, una minoranza intelligente, e qui inserirei una moltitudine di virgolette, modella l'opinione pubblica per il bene della società. Ecco cosa scrive Bernays nel suo libro. La manipolazione cosciente e intelligente delle azioni e delle opinioni delle masse è un elemento importante in una società democratica. Quelli che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile, che è il vero potere nel nostro paese. Noi siamo governati. Le nostre menti sono formattate, i nostri gusti educati, le nostre idee suggerite, in gran parte, da uomini di cui noi non abbiamo mai sentito parlare. Il suo postulato di partenza è un postulato psicologico che consiste nel dire che una folla è prima di tutto spinta dai propri istinti, dalle proprie pulsioni, come avrebbe detto Freud, di cui tra l'altro era il nipote. E quindi la democrazia non sarebbe il luogo del potere del popolo. D'altronde, l'idea stessa di potere del popolo risuona in questo caso come un'antitesi, perché se il popolo obbedisce ai propri istinti, non obbedisce ai propri interessi, alla propria ragione. Dunque, la democrazia non è il luogo del potere del popolo, la democrazia è il regime nel quale si manipola l'opinione del popolo invece di costringerlo. In questo senso, potremmo dire che la democrazia è una dittatura matura, una dittatura compiuta, perché è un regime nel quale si cerca di influenzare piuttosto che imporre. È vero che quando si impongono al popolo troppe cose che rifiuta, il rischio è quello della rivolta, della rivoluzione, perché un popolo costretto non può che rendersi conto di essere costretto, consapevole di essere sotto il giogo di un potere tirannico. Al contrario, in un regime democratico, cioè in una società dove l'opinione del popolo non è costretta, ma influenzata, il popolo ha l'impressione di avere sotto controllo le proprie emozioni, la propria libertà. L'arte della propaganda di Bernays permette di mantenere il popolo nella dominazione senza che questo stesso popolo sia consapevole di essere manipolato. E per comprendere il pensiero di Bernays dobbiamo abbandonare le nostre credenze angeliche sulla democrazia e accettare l'idea che quelli che hanno il potere non lavorano per l'interesse del popolo, ma per il loro proprio interesse. Ed ora qualche tecnica per influenzare l'opinione, sempre secondo Bernays. Prima tecnica, puntare sulle paure, perché la paura permetterà l'accettazione di misure restrittive al riguardo delle libertà individuali. Non bisogna infatti sottovalutare il bisogno di sicurezza, perché in situazioni di pericolo il bisogno di sicurezza prevale sul bisogno di libertà. E quindi puntare sulle paure è il miglior modo per tenere il popolo al guinzaglio. Seconda tecnica, creare divisioni, cioè posizionarsi per o contro, senza possibilità di sfumature o di cercare posizioni di equilibrio. Un principio binario che sfocia nel manicheismo e non lascia alcuno spazio per il pensiero che è, per definizione, sottile. E dunque ci si posiziona per far prevalere la nostra appartenenza a un campo. Perché appartenere a un campo è come definirsi appartenenti a un gruppo e corrisponde dunque al bisogno di appartenenza. Terza tecnica, proporre un soggetto in termini di contrapposizione di valori. Questa tecnica permette di constatare a che punto noi siamo tutti implicati in questo processo di dominazione attraverso le emozioni, fino a che punto siamo addomesticati a reagire attraverso le emozioni, a che punto siamo addestrati ad abbandonare la nostra capacità di esame razionale quando siamo di fronte ad un interesse emozionale. Come sassi noi siamo, come sassi inerti e inamovibili, anche se il nostro orgoglio ci finge sciolti e liberi padroni di noi. Potremmo allora dire che la manipolazione dell'opinione è una emanazione di ciò che Debord chiamava la società dello spettacolo. La società dello spettacolo è la società della messa in scena generalizzata e dell'esibizione emozionale. L'obiettivo è di renderci consenzienti a ciò che rifiuteremmo se le cose fossero chiaramente enunciate e non fossero presentate sotto una luce emozionale. Le nostre democrazie sono diventate il teatro di questo spettacolo, lo spettacolo del progresso, lo spettacolo della libertà, lo spettacolo dell'uguaglianza. Etimologicamente, spettacolo significa ciò che si mostra, e ciò che si mostra dimostra che c'è un interesse a mostrare. C'è un interesse a mostrare tutto ciò che può produrre uno shock nella coscienza, tutto ciò che può commuovere e avere un'influenza sulle nostre opinioni. Manipolare le nostre opinioni e manipolare il nostro lato innocente. Manipolare le nostre opinioni è manipolare le nostre debolezze. E noi detestiamo riconoscere che si è abusato delle nostre debolezze. Preferiamo dirci che la nostra sensibilità, le nostre emozioni, sono il segno della nostra umanità e del nostro amore per il prossimo. Ma un modo per risolvere questo conflitto tra emozione e ragione è dirsi che noi abbiamo il diritto di provare delle emozioni, di essere sensibili, ma abbiamo egualmente il diritto di non riservare le nostre emozioni allo spettacolo, alla scena mediatica della manipolazione. Denunciare la manipolazione attraverso l'emozione non significa denunciare l'emozione. e denunciare la strumentalizzazione dell'emozione, la presa in ostaggio delle coscienze, le catene invisibili che ci impediscono di esercitare il nostro discernimento, la nostra umanità, come ora sta avvenendo. E forse l'opera di Bernays potrà aiutarci oggi a discernere meglio l'invisibile e a non cedere al sonno delle coscienze. Io canterò politico quando starete zitti e tutti i vostri slogan saranno ormai sconfitti. Quando sarete stanchi di starvene nel coro a battere le mani solo se lo vogliono loro, ed avrete bisogno dell'individualismo per vincere la noia di un assurdo conformismo. Io canterò politico, ma il giorno è ancora lontano. Per ora sono l'unico ad andare contro mano, ma i miei finti colleghi che fan rivoluzioni seduti sopra pacchi di autentici milioni dovranno ritornare al ruolo di Pulcini, lasciando intatto il candido e poetico Puccini. Io canterò politico, ma sarò troppo vecchio, e ai giovani dell'epoca io romperò parecchio. Il gusto del dissenso l'avranno ormai perduto, e il festival giù in piazza lascerà il paese muto. Che pace nel silenzio, sì, questa è democrazia, ma il primo che lo nega voi lo cacciate via. Io canterò politico soltanto per la gente che è pronta a riconoscere di non capirci niente. Non è cambiando tattica o il nome del padrone che il popolo ha finito d'essere preso per coglione. Volete stare comodi, nessuno a disturbarvi, e beh, siete serviti, potete masturbarvi. E veniamo ora a Chomsky, che approfondisce con acume tali meccanismi per stimolarci a sormontarli. Ci invita ad osservare attentamente a come funzionano le media e l'industria delle comunicazioni, di osservare la pena che da lungo tempo si danno per trovare modi di marginalizzare e controllare la gente nelle società democratiche, ma soprattutto di osservare come operano i grossi media, quelli che danno il tono, la stampa nazionale, la televisione, di notare come si selezionano le informazioni, quale tipo di informazioni, le loro fonti. Scopriremo così cose sorprendenti sulla democrazia. Secondo Chomsky, i governi si servono del bastone e della menzogna, e reputa che la menzogna, la propaganda, è alla democrazia ciò che la violenza è alla dittatura. Ma crede al potere del cittadino di difendere la verità, al contrario di Bernays, e continua dicendo che siamo impigliati in una rete infinita di inganni, che viviamo in una società dove le verità sono facilmente soffocate e che l'indottrinamento non è assolutamente incompatibile con la democrazia, ma piuttosto ne è la sua stessa essenza. Per evitare rivolte è necessario allora controllare i pensieri della gente. Il mezzo? La propaganda, la fabbricazione del consenso, marginalizzare le masse e condurle all'apatia. Afferma Chomsky che i media trasmettono le informazioni che il potere ha interesse a divulgare. Come faranno? Se si approfondisce un po', le prove sono accablanti. Per esempio, nei dibattiti dovrebbero confrontarsi almeno due idee diverse, ma di solito si ha un solo soggetto di discussione, la fabbrica del consenso, che orienta, plasma, modella, che controlla le nostre percezioni. Il pubblico viene marginalizzato e ci si assicura che non si intrometterà negli affari dell'élite. Nei paesi totalitari lo Stato decide la linea da seguire e ciascuno deve poi conformarvisi. Le società democratiche operano in modo diverso. La linea non è mai enunciata come tale, è implicita. Si procede in qualche modo al lavaggio di cervelli in libertà. E anche i dibattiti appassionati nei grandi media si collocano nel quadro dei parametri impliciti consentiti che tengono in margine numerosi punti di vista contrari. Il sistema di controllo delle società democratiche è molto efficace, esso infonde la linea direttrice come l'aria che si respira. L'industria delle relazioni pubbliche produce, nel senso proprio del termine, del consenso, dell'accettazione, della sottomissione. Controlla le idee, i pensieri, le menti. Non ce ne accorgiamo. Non dimentichiamo come si impone sempre un'ideologia. Per dominare la violenza non basta. Occorre una giustificazione di un'altra natura. Così, quando una persona esercita il suo potere su un'altra, che sia un dittatore, un colono, un burocrate, un marito o un padrone, ha bisogno di una ideologia giustificatrice, sempre la stessa. Questo dominio è fatto per il bene del dominato. In altre parole, il potere si presenta sempre come altruista, disinteressato, generoso. Mangiamo col Covid, mangiamo come essa, mangiamo solo recovery, mangiamo la messa, mangiamo che a scuola, mangiamo che trasporta, mangiamo che vive, mangiamo pure che morta. Mangiamo col Covid, mangiamo come essa, mangiamo solo recovery, alla prima kermessa, mangiamo c'ha Repubblica, ma senza c'ha buffa. Voglio che io voglio sta l'ultima morte sanità. Una stella capitana, una stella zingariella, una stella per Mastella e una dopo rossa amatore. La stella che rimane per chi vuole costruire il carro troppo buon bandiere, il carnevale mandarello. Con le merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolvera sempre il campo e troppo le sto quante, non manca più nessuno, solo non si vedono arlecchine e funzionari. L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, e non si dica che con rima presso niente, stanno facendo tutto questo per te. Perché? L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e mole madre da mezzo che comanda la gang. Comanda la gang, comanda la gang, comanda la gang, comanda la gang. Scevavano stipendio, scevavano in tas, almeno la izzammo monte premi roba russa. Mangiamo col Covid, no mangiamo come essa, mangiamo show recovery e fornimmo la pressa. Mangiamo ca miseria, mangiamo ca fam, e a roppi il tuo brutello ce ne amme non va. Una stella capitana, una stella zingariella, una stella per Mastella e una dopo rossa amatore. La stella che rimane per chi vuole costruire il carro e dopo può partire il carnevale mantanere. Con le merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolverà sé. Difendersi allora, esercitando una sorta di autodifesa intellettuale, forse, acquisendo una indipendenza dello spirito, della mente, e lavorarci, organizzandosi, riunendosi, perché difficilmente ci si arriva da soli. Per concludere, aggiungerei che c'è qualcosa di triste e addirittura scandaloso nel dover discutere di questi temi due secoli dopo Voltaire, che, come si sa, dichiarava: difenderò le mie opinioni fino alla mia morte, ma darò la mia vita perché possiate difendere le vostre. In ogni caso, vi do appuntamento alla prossima e, come bonus aggiuntivo, vi saluto con un ulteriore invito alla resistenza sotto forma di proverbio indiano: solo i pesci morti nuotano con la corrente.